Oh, isola dell'Elba, infame scoglio, che ti combatti con le onde del mare. E se non tocca a me di che, o che ti voglio, e tocca a te aprirti a rintinare. È morto Pietro Gori, oh poverino, oh socialisti fatine, e lo lutto, socialisti, oh socialisti fatemelo, fateglielo il lutto. Ci dovesse essere una rima, non mi posso ricordare tu. Dimmelo Pietro Gori, o dove sei? Sono a Portoferraio a lavorare. Sono a Portoferraio a lavorare. Guadagno l'oro e me lo o danno il rame.